Mix 24, i gialli della storia. Donne imprenditrici che hanno fondato un'azienda ce ne sono tante, ma Luisa Spagnoli è forse l'unica ad averne fondate due aziende ancora oggi molto importanti. Io mi ricordo che a vederla faceva terrore, a starci era una vera mamma. Questa è una grande storia di provincia e come tutte le grandi storie nasconde un grande amore. E come tutti i grandi amori, dietro questi grandi amori ci sono delle storie di corna. E così sono nate le due industrie più importanti della mia città. Luisa Spagnoli è un'imprenditrice di successo, una donna capace di passioni dirompenti e capace di combattere contro le convenzioni e contro la morale bigotta e provinciale che vedeva le donne in posizione subalterna. Sarà lei a creare il bacio e a fondare la Perugina, la più grande fabbrica di cioccolato in Italia. Sarà sempre lei a decidere di allevare i conigli d'angora con i quali il figlio Mario farà nascere la casa di moda Luisa Spagnoli e che sarà una delle firme più riconosciute del Made in Italy. Oggi a Mix 24 racconteremo la sua storia, una delle avventure più straordinarie del mondo industriale italiano. Ma oltre ai suoi successi imprenditoriali c'è anche la sua coraggiosa storia d'amore. Luisa è una donna sposata con tre figli quando diventa l'amante di un uomo più giovane di lei di 14 anni, Giovanni Buitoni, con il quale intreccia un sodalizio di affari e di cuore. Come raccontano l'operaia Franz Ciurnelli e Cristina Mencaroni, che dirige il Museo Storico della Perugina. Io penso che se avesse fatto con quel che ha fatto la Spagnoli, c'avevo cinque fratelli, tutti più grandi di me, ma avrebbero cacciato senz'altro, in casa non ci stavo. Luisa Spagnoli non era donna da star dietro alle male lingue, probabilmente non aveva neanche tempo per star dietro alle male lingue. Era una donna pratica, con degli obiettivi concreti, era una donna determinata, che trascorreva gran parte del suo tempo in laboratorio, a creare nuovi dolci, ovvero ad inventare dei nuovi prodotti, soprattutto quelli a base di cioccolata. La storia di Luisa comincia nel 1877 a Perugia, dove cresce in una famiglia molto modesta. Ancora giovane rileva una drogheria con il marito Annibale e la gestiscono con un solo dipendente, ma presto costruiscono una piccola fabbrica che poi si allargherà con il socio Francesco Buitoni, un affermato produttore di pasta, come testimoniano Bruno Buitoni e lo storico Valerio Corvisieri. Quell'epoca era una pasticceria che mano a mano si è sviluppata proprio per le sinergie tra Annibale e Luisa Spagnoli e mio nonno Francesco. Nel 1909 avviene un fatto fondamentale per la nostra storia, si verifica la prima crisi della Perugina e uno dei soci fondatori, Francesco Buitoni, incarica il figlio Giovanni Buitoni, allora appena diciottenne, di andare a sistemare i conti di questa piccola azienda. Voglio vivere così, col sole in fronte, Grazie al giovane Giovanni Buitoni l'azienda si consolida e cresce. Il talento di Luisa intanto si afferma, sta per nascere il suo capolavoro, il bacio. Se mettessimo in fila i cioccolatini usciti dalla fabbrica faremo un percorso di 200.000 chilometri, 5 volte la circonferenza della Terra, e tutto questo nasce dall'idea di una donna. Ancora Bruno Buitoni e la direttrice del Museo della Perugina, Cristina Mencaroni. Data la sua forma, con la nocciolina messa proprio al culmine del cioccolatino, sì, poteva sembrare un pugno chiuso, pronto per un cazzotto. E lei gli mise il nome Cazzotto. Il cioccolatino era buonissimo era il nome che lasciava un po' a desiderare Cazzotto. Bisogna pensare che in quegli anni, negli anni 20, ma fino agli anni 50, il cioccolato si regala, non esiste il segmento dell'autoconsumo, è un'Italia povera che trova nel cioccolato unicamente un veicolo relazionale. Ora, andare a regalare un Cazzotto era un fatto un po' inquietante. Diceva, come si fa? Dice, uno che entra in un negozio che vuole fare un regalo, dice, mi dà un Cazzotto? Dice, non è possibile. E se mi dà un bacio è una cosa tutta completamente diversa. Per fortuna Luisa Spagnoli ha al suo fianco Giovanni Buitoni, che probabilmente conosceva poco di tecniche di lavorazione del cioccolato, ma che aveva un grande fiuto in termini di marketing. Nel 1910, quando cominciano a lavorare insieme, Luisa Spagnoli ha 33 anni, Giovanni Buitoni 18. Lei ha già un marito e tre figli, lui è un giovane avvocato, erede di una famiglia ricca e potente. All'inizio li unisce il lavoro, poi arriva l'amore. Giovanni era molto più giovane di Luisa, però erano due teste che lavoravano bene insieme e si innamorarono anche. Io non so se lui l'abbia veramente amata. Non era bellissima la nonna, però aveva un fascino sicuramente, non un fascino femminile, era un fascino che veniva da dentro sicuramente, era una donna che si imponeva. Sempre si è parlato che il signor Giovanni e la signora Luisa fossero stati innamorati. Giovanni Buitoni non solo rimette in ordine la contabilità, affronta immediatamente le strategie commerciali, tra le quali rientra anche l'idea di aprire dei punti di vendita diretti. Sono dei negozi a tutti gli effetti, ma sono anche dei canali di immagine. Questa è un'idea che poi sarà successivamente ripresa da tante altre aziende, in particolare nel settore della moda. Il primo negozio lo apre ovviamente a Perugia, sul corso principale. Mi ricordo il negozio di Perugia sulla via principale. Tutte le domeniche andavamo di lì a comprare i dolci della Luisa. Era una festa. Ma questo periodo di pace e tranquillità si esaurisce nell'estate del 1914 con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Per le donne inizia la stagione dell'impegno. Gli uomini sono in guerra e allora nelle fabbriche, negli uffici, nei campi, nelle officine entrano milioni di lavoratrici. Ne parla la storica Barbara Curli. La Prima Guerra Mondiale fu la prima guerra industriale di massa, un vero e proprio boom economico. Si trattava di armare, vestire, nutrire un esercito mobilitato di quasi 5 milioni di uomini, soltanto nel caso dell'Italia. E questo determinò uno sforzo produttivo senza precedenti nella storia italiana. Questo aprì naturalmente alle donne molte opportunità di occupazione, non soltanto nei settori di guerra, le armi e munizioni, il vestiario militare, e non soltanto per coprire i posti lasciati liberi dagli uomini richiamati per il fronte. La Prima Guerra Mondiale, diciamo che è stato un dramma naturalmente come guerra, perché nessuno se le può augurare, però diciamo che le donne umbre in particolar modo si sono messe in attività, cioè quando le cose dovevano essere fatte e gli uomini non c'erano, erano tutti in guerra. Con la guerra si aprono molti problemi, tra cui quello che le materie prime cominciano a scarseggiare. In più il governo Salandra vieta il commercio dei dolci, ma con un'unica eccezione, il cioccolato. Lo racconta lo storico Valerio Corvisieri. Il cioccolato faceva eccezione perché era considerato un alimento utile per l'esercito al fronte. Tutti i mali non verranno per nuocere perché i capitali investiti per una parziale riconversione degli impianti faranno sì che la Perugina poi si troverà pronta nell'immediato dopoguerra a sviluppare la sua linea di prodotti basati sul cioccolato, che conoscerà appunto a partire dall'inizio degli anni 20 una forte espansione. Nonostante il forte sviluppo dell'azienda, la famiglia di Luisa non vive un momento tranquillo. Annibale, suo marito, ha un grave esaurimento nervoso e da lì a poco arriverà ad abbandonare la Perugina. Ma a un certo punto, diciamo, Giovanni Buitoni era diventato un po' l'ariete della famiglia Buitoni, che cercava di mettere le mani sulla maggioranza delle azioni della Perugina. Ci riescono, credo, anche in parte approfittando appunto di un problema che esisteva fra Luisa Spagnoli e il marito. Giovanni Buitoni diventa così il padrone assoluto della Perugina. Come suo socio rimarrà solo Luisa Spagnoli assieme ai tre figli. È un riconoscimento al suo lavoro, ma in realtà è stato il marito Annibale a cedere a lei e ai figli le quote che sarebbero spettate a lui. Il far entrare Luisa nel consiglio di amministrazione è un po' una sua consacrazione di Luisa, se vogliamo, e una conferma del valore di questa donna che aveva, diciamo, mostrato le sue qualità, per esempio, durante i difficili frangenti della Prima Guerra Mondiale. Al di là del rapporto con Giovanni Buitoni, l'indiscusso talento di Luisa va comunque collocato nel quadro di quella che è stata la straordinaria scuola di managerialità e di imprenditorialità rappresentata dalla Perugina nella storia economica di Perugia e dell'Umbria in generale. Assaggiava tutto, inventava nuovi dolci e assaggiava. Era veramente dotata di un talento per i dolci, era un genio, proprio così. Quello che era importante è che lei non aveva ricette e lei a palato sapeva se l'operaio aveva sbagliato o meno. E se aveva sbagliato, perché lei non sbagliava, perché il palato era veramente valido, e allora faceva delle... era terribile. Il 1922 è l'anno della marcia su Roma, una marcia che parte proprio da Perugia. La città infatti è il quartier generale di Bianchi, De Bono, De Vecchi e Balbo. Sono i quadrumveri fascisti che guideranno le falangi squadriste alla volta della capitale. L'anno seguente si celebra lo storico anniversario di nuovo nella città umbra. Abbandonato il piglio militaresco, Mussolini si concede alla cioccolata e alle delizie che Luisa continua a sfornare dal suo laboratorio. Il 30 ottobre del 23 arriva in divisa con tanto di feste e medaglie alla Perugina. Così Cristina Mencaroni, la nipote Mariella e la storica Curli. Guardando le foto custodite ed esposte all'interno del nostro museo, si vede che è un momento felice. Luisa è tra i massimi dirigenti di un'azienda di successo, un'azienda che dà lavoro in quel momento a 400 persone, di cui 300 sono operaie. Sono le operaie assunte da Luisa Spagnoli e verso le quali Luisa ha sicuramente un'attenzione tutta particolare. Lei a un certo momento si rese conto, come mamma, che queste donne, poverette, devono lasciare i figli a casa. Per cui il fatto solo di poter portare i piccolissimi a poter dare il latte, per lei era una cosa fondamentale e questo lo fece subito. Quando avremo un quartierino sul grattacielo. Il caso di Luisa e delle sue operaie è interessante. Si trattava di forme di paternalismo aziendale, direi declinato al femminile, direi quasi di maternalismo aziendale, anche questo da collocare in un quadro di gestione del personale e di organizzazione aziendale dell'epoca, finalizzata all'aumento della produttività attraverso forme di welfare aziendale alternative agli alti salari, che però avevano l'effetto di favorire l'attaccamento delle operaie alle aziende, e anche l'attaccamento è uno dei fattori di produttività. La sensibilità sociale di Luisa crescerà negli anni. Il figlio Mario costruirà un nuovo stabilimento che chiamerà la Città dell'Angolo, una sorta di comunità autosufficiente, casette a schiera per i dipendenti, asili, mensa, botteghe artigiane e persino una piscina. Appena pranzato andavamo tutti in piscina io a vedere, non è che facevo il bagno, però c'erano quelle che lo facevano il bagno. Nell'ora libera potevamo divertirci, fare fotografie, fare il bagno, prendere il sole. È l'unica azienda che aveva una piscina per gli operai, per carità, una meraviglia. Con la nascita e lo sviluppo del regime, l'autarchia entra prepotentemente nella vita degli italiani e fare a meno dei prodotti stranieri diventa il cavallo di battaglia della politica economica del Duce. E questo si riflette sulle attività della Perugina, ne parlano Bruno Buitoni e Valerio Corvisieri. Sanzionami questo, amica tenace, lo so che ti piace, ma non te ne do. Sanzionami questo, amica tenace, lo so che ti piace, ma non te ne do. Guarda la regina che dona la sua fede, quella che il re gli diede. L'altare della patria coglierà l'offerta che ogni sposa porterà. Con la Turchia venne meno anche l'importazione dei grani di cacao che servivano per fare il cioccolato. E questo era un colpo forte, però si sostituiva e con altre materie prime. Si inventò una tavoletta con il nome di all'arancio, dove c'era l'arancio dentro, lavorato in una certa maniera, però questo dava luogo anche a una innovazione durante il periodo autarchico. Si è discusso e si discute molto sul fatto che l'autarchia sia stato un elemento positivo o negativo nella storia del nostro paese. Di sicuro nella storia dell'Angora Luisa Spagnoli in particolare l'autarchia fu un elemento, come dire, positivo che collaborò ad incrementare il suo sviluppo, a favorire, diciamo, il suo sviluppo. E l'Angora Spagnoli sarà un'altra impresa che scaturirà dall'inventiva di Luisa. A un certo punto comincia ad allevare conigli d'angora e la vicenda della lana e dei conigli d'angora diventerà per Perugia una vera e propria impresa epica. Questa storia di Luisa e dei conigli, poi di Mario come vedremo, è una vera e propria epopea italiana. Il tutto ha inizio quando nel 1918 la famiglia acquista un terreno dove costruirà la sua villa, appunto nell'immediato dopoguerra della Prima Guerra Mondiale. Su questo terreno Mario Spagnoli, il figlio di Luisa, inizierà un fortunato allevamento di polli. In parallelo sua madre Luisa comincia ad allevare delle coppie di conigli d'angora. Tra tanti animali che lei aveva fatto venire dall'estero, aveva saputo che c'erano dei conigli d'angora molto belli e lei se ne innamorò e li fece venire. Avendoli qui cominciò a prendergli un po' il desiderio, dice, ma chissà, forse potrei fare qualche cosa, filare questa bellissima lana. Il primo laboratorio dove verranno fabbricati i primi capi di abbigliamento in lana d'angora, Luisa Spagnoli se lo farà in casa, dove farà venire 6 o 7 operaie, come si suol dire, prestate dalla Perugina. Fermare Luisa è un'impresa impossibile. La fase successiva sarà comprare la lana anche da altri allevatori. All'inizio sono soltanto 8. Dopo pochi anni diventano 8.000 con un esercito di 250.000 conigli. Animalista antelittera, ma la Spagnoli ottiene la lana senza uccidere l'animale, senza farlo soffrire. Il pelo viene pettinato e lavato con un procedimento sperimentato da Luisa in persona. Intanto nella sua azienda che produce cioccolata, Luisa vuole creare un reparto specializzato in confezioni di lusso. Ha capito che per vendere bisogna creare anche un'immagine accattivante. Ed è Federico Seneca, nominato direttore creativo della Perugina, la persona giusta per questo lavoro. Un artista importante, un creativo degli anni del futurismo. Federico Seneca era un grande amico di Luisa Spagnoli. Solo questo spiega l'entusiasmo che metteva nel suo lavoro, in particolare in questo lavoro, quello di, come dire, creare il look del bacio. Figuratevi che all'inizio le frasi contenute nei cartigli, nei bigliettini che accompagnano il bacio, le scriveva proprio Seneca e quasi tutte contengono, guarda caso, la parola bacio. Federico Seneca in questa fase si firmava però come anonimo. Mi ami, mi ami, mi ami, mi ami, mi ami, mi ami. L'amor mio, ma mio, ma mio, ma mio, ma mio. Poi nel 1935 una nuova straordinaria idea. Protagoniste la radio e una delle trasmissioni più famose della storia, I Quattro Moschettieri. Ne parlano Enrico Vaime e Cristina Mencaroni. I Quattro Moschettieri. Ora, la radio negli anni 30 era qualcosa di paralizzante. Figuratevi che rimandavano degli impegni storici per ascoltare dei programmi radiofonici. Al programma si abbina una raccolta di figurine che si trovavano all'interno dei prodotti dell'azienda. Gli italiani impazziscono per queste figurine. Al museo, ancora oggi, sono conservati, sono esposte non solo le figurine originali, ma tutta la serie di bozzetti illustrati, disegnati da Angelo Violetto, appunto il disegnatore di queste famose figurine. I Quattro Moschettieri fu spostata di orario perché la Lega Calcio lo chiese. Che succedeva? Che veniva trasmessa nell'orario, nello stesso orario dell'inizio delle partite, e la gente non andava alla partita per sentire una trasmissione radiofonica. Gli italiani impazziscono, ripeto, per queste figurine che mettevano in palio dei premi assolutamente incredibili, straordinari. Il primo premio è la Fiat 500 Topolino, lanciata proprio quell'anno. Seguono Moto Guzzi piuttosto che cucine economiche, frigoriferi, e non mancano nella serie ovviamente gli scialli in angora, i golf in angora di Luisa Spagnoli. Gli italiani si scatenano alla caccia delle figurine. La Perugina e la Buitoni, unite in questa operazione, hanno un boom di vendite. Con le figurine della seconda serie, la concorrenza viene annientata. Perugina stava soppiantando tutti i concorrenti, e lì allora appunto ci fu anche questo intervento di Mussolini di calmare un po' questa iniziativa che dava un po' fastidio a tanti. Non a Mussolini, perché anzi lui era quello, anche lui faceva le figurine, almeno ci risultava, faceva la collezione, lui o i suoi figli. Allo scoppio del secondo conflitto mondiale ci saranno nuovi problemi. Con il razionamento la Perugina è costretta a produrre un surrogato del cioccolato realizzato con le ghiande. E poi nel 1943 dovranno produrre per i tedeschi un torrone di cui vanno pazzi. Poi la guerra finisce, le fabbriche riaprono, ma Luisa non c'è già più. Un tumore alla gola l'ha portata via in pochi mesi. È morta a Parigi nel 1935 e accanto a lei c'è stato fino alla fine Giovanni Buitoni. Collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix 24 sul sito www.radio24.it.